Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Il segretario mi pare tutto tranne che in difficoltà. Lo streaming non si fa perché adesso è il momento di discutere. Così ha spiegato, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, Matteo Richetti, portavoce del PD, a proposito della direzione del Partito Democratico che si è tenuta oggi. Poco prima ha detto non va in streaming, ma comunque insomma tutto andrà bene. Cioè è la prima volta da che c'è Matteo Renzi che non viene trasmessa appunto in modo che tutti la possano seguire, questa direzione del PD. Che si saranno detti? Intanto è stata votata la relazione di Matteo Renzi all'unanimità, anche se la minoranza di sinistra non ha votato, però diciamo lo scontro è stato soprattutto sulle alleanze, perché anche Franceschini gli ha detto a Renzi: qui il PD da solo non può vincere, con chi ci alleiamo? Dobbiamo pure affrontare questo argomento delle alleanze. Mentre Renzi ha detto: no, le alleanze sono un argomento noioso per gli ascoltatori, per voi è noioso, con chi dovrebbe allearsi il PD? Ne parleremo tra poco, parlando appunto di questa direzione, di come è andata, così come ci occuperemo di altri temi. La seconda udienza oggi del processo d'appello a Massimo Bossetti, unico imputato e già condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio. La difesa dice che è stato rimaneggiato il cadavere della tredicenne per depistare. Capiremo un po' dal nostro cronista che cosa è successo, diciamo i punti principali di questa seconda udienza dedicata tutta alla difesa. E poi una scoperta importantissima, così pare, del CERN di Ginevra, condotto questo studio da un ricercatore, da uno scienziato italiano che sarà ospite tra poco, più tardi, qui a Effetto Notte. È stata scoperta la particella XI o XI, che dovrebbe rappresentare la colla della materia. Speriamo insomma che di riuscire a capirlo, che ce lo spieghi nel modo più didascalico possibile. E poi ci collegheremo anche con Amburgo, perché pare che ci siano degli scontri in vista domani del G20. Prima di tutti questi argomenti, di approfondirli con i vari ospiti, vi ricordo, anzi vi riassumo prima di tutto la giornata, ricordandomi fatti principali. E poi sappiate anche che vi ricordo che i vostri due canali privilegiati per intervenire qui a Effetto Notte sono la pagina Facebook di Effetto Notte, la pagina Facebook del programma, oppure il numero per WhatsApp ed SMS, che è sempre lo stesso, 349-238-6666, 349-238-6666. Via con la giornata. G20, vigilia blindata ad Amburgo. Trump è arrivato nel pomeriggio proveniente da Varsavia. Intanto nella città tedesca sono iniziati gli scontri tra manifestanti e polizia. Il vertice a Tallinn dei ministri europei dell'interno, braccio di ferro sui migranti, no sui porti, sì alle regole per le ONG. La direzione del PD, tensione sul tema delle alleanze. Renzi assicura nessun accordo con Forza Italia, ma Orlando ed Emiliano non votano. Femminicidi sulla legge per sostenere gli orfani, scontro tra PD e Forza Italia che frena il provvedimento. L'omicidio di Yara Gambirasio, oggi giorno della difesa, al processo d'appello a Massimo Bossetti. Ciclismo, al Giro Donne cade in discesa la ventenne Claudia Cretti, è in gravi condizioni. Scienza, scoperta al CERN la particella XI, la colla della materia. A Effetto Notte lo scienziato italiano che ha condotto lo studio. Quindi partiamo da Amburgo, dove mancano poche ore all'inizio del G20, al vertice dei grandi del mondo, città tedesca blindata da questa mattina per l'arrivo dei leader. Trump stamani ha già parlato a Varsavia, in piazza, obiettivo la Russia di Putin, e intanto ad Amburgo sono già in corso, come vi dicevo, le manifestazioni di protesta contro il vertice. Fa la voce grossa contro la Russia alla vigilia dei lavori del G20 e soprattutto del suo primo incontro ufficiale con Vladimir Putin, il presidente americano Donald Trump. Di fronte alla piazza amica di Varsavia, Trump cerca di allontanare le ombre del Russia Gate, che rischia di affondarlo. We urge Russia to cease its destabilizing... La Russia cessi le sue attività destabilizzanti in Ucraina e in altre parti del mondo per unirsi alla comunità di nazioni responsabili nella nostra lotta contro i nemici comuni, dice Trump, che agli alleati polacchi promette che Varsavia non sarà più ostaggio di un unico fornitore di energia. Poco prima il presidente americano aveva seminato confusione in conferenza stampa sul ruolo della Russia nelle ultime presidenziali, ammettendo a denti stretti che Mosca ha cercato di influenzare le elezioni americane, ma annacquando la rivelazione con la constatazione che anche altri paesi avrebbero cercato di farlo. Trump è partito nel primo pomeriggio per Amburgo per i bilaterali pre-G20 con la cancelliera tedesca Merkel e il leader giapponese e sudcoreano. Proprio col Giappone l'Unione Europea ha raggiunto un'intesa di massima di partnership economica, la più importante mai conclusa dall'Unione a livello bilaterale, con un impegno specifico sul clima. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E più tardi, come vi dicevo, anzi tra poco praticamente, ci collegheremo con la città tedesca per capire un po' qual è la situazione, visto che appunto già si parla di questi scontri tra manifestanti e polizia, manifestanti che arrivano da tutta Europa. Sul fronte dei migranti il tema è stato al centro oggi del vertice di Tallinn in Estonia dei ministri degli interni, ma sono state gelate le speranze dell'Italia, che ha raccolto al momento solidarietà un po' più a parole, diciamo, tanto per cambiare. Doccia fredda per l'Italia a Tallinn. Il fronte comune di Francia, Germania, Belgio e Spagna ha bocciato la richiesta italiana di sbarcare i migranti in porti non italiani. Ancora prima di iniziare, il ministro degli interni tedesco Thomas de Maizière ha fatto capire qual era la linea. Siamo assolutamente contrari, ha detto, a una regionalizzazione della crisi, vale a dire che i porti tedeschi resteranno chiusi alle navi con a bordo migranti. Il no di Spagna e Francia era arrivato già 2 giorni fa. Anche sui ricollocamenti nessun passo avanti. Sulla proposta di rivedere il mandato della missione Triton, la discussione è invece aperta, ha detto il ministro degli interni Minniti. L'Italia ha un suo punto di vista, altri paesi hanno un loro punto di vista. Come giusto discuteremo? Discuteremo legittimamente, se mi è consentito, anche con la necessaria fermezza. Il governo italiano invece porta a casa l'impegno dei paesi membri europei a sostenere finanziariamente la Libia e rafforzare il fondo per l'Africa, entrambi fondamentali per sradicare nel medio periodo le cause della crisi migratoria, oltre che l'intesa per un codice di condotta delle ONG operanti in mare. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo alla politica interna. Oggi c'è stata, come dicevo, la direzione del PD, del Partito Democratico, botta e risposta soprattutto sulle alleanze e poi sul risultato delle comunali. La prima è stata questa direzione a porte chiuse dell'era Renzi, quindi senza streaming. Non parliamone di alleanze, ha detto Renzi, altrimenti i cittadini non vedono le riforme. Franceschini, il ministro dei beni culturali, ha replicato: le coalizioni servono, da solo il PD non vince, parliamone ma non sui giornali, teniamone conto per la legge elettorale. La critica non è un tradimento o un complotto, ha detto Franceschini, mentre Renzi ha replicato: non passerò mesi a parlare di coalizioni, sono più importanti le leggi sullo Ius Soli e il veto sui trattati europei, nei trattati europei sul fiscal compact. In ogni caso, la relazione di Matteo Renzi è stata votata all'unanimità dalla direzione del PD. A votarla, dopo la decisione delle minoranze di non partecipare, tutta la maggioranza, inclusa l'area che fa capo a Dario Franceschini. Nel frattempo si è consumato uno scontro al Senato sul disegno di legge che tutela gli orfani dei femminicidi. Forza Italia, GAL e Lega hanno detto di no all'esame, perché nel testo si fa riferimento ai figli delle unioni civili. Replica la sottosegretaria alla presidenza Boschi, che ha detto con stupore e dispiacere: così si mette a rischio il risultato finale. Sentiamola. Io mi auguro che soprattutto le senatrici, le deputate di Forza Italia, Mara Carfagna, Stefania Prestigiacomo, chi si è occupato anche da ministra di questi temi, possa far cambiare idea al proprio partito. Occorre tutelare i bambini che hanno visto uccidere le proprie madri, occorre farlo subito, perché loro non possono aspettare i tempi delle discussioni interne a Forza Italia. A Palazzo Madama intanto via libera tra le polemiche alla riforma del codice antimafia, 129 sì, 103 gli astenuti, ma per il ministro Orlando ci sono le condizioni per portare la riforma fino in fondo. E ora parliamo dell'omicidio di Yara Gambirasio, perché oggi c'è stata la seconda udienza a Brescia del processo d'appello in cui è imputato Massimo Bossetti, già condannato all'ergastolo per questo delitto. È stato il giorno della difesa oggi, che ha sostenuto che il cadavere della tredicenne è stato rimaneggiato per depistare, che il muratore di Mapello è pronto a sottoporsi a un'ulteriore perizia del DNA. Su questo torneremo e capiremo che tipo di udienza e cosa è stato detto oggi in questo processo d'appello. Per i vaccini non si spengono le polemiche, ridotti in commissione gli obblighi e le sanzioni. 10 obbligatori e altri 4 attivamente consigliati e gratuitamente offerti dal servizio sanitario. E poi sanzioni più basse per i genitori che non vaccinano, nessun accenno alla possibile perdita della patria potestà e possibilità di somministrare le dosi anche in farmacia. Questi principali emendamenti approvati dalla Commissione Sanità del Senato al testo che introduce l'obbligo vaccinale per l'accesso a scuola. Il provvedimento approderà nell'aula di Palazzo Madama martedì, ma nonostante le modifiche resta la spaccatura tra le regioni. La maggioranza dei governatori si è espresso per il sì, mentre a guidare il fronte del no è sempre il Veneto, regione che presenterà il ricorso alla consulta nelle prossime ore. Non siamo contrari ai vaccini, però pensiamo che l'introduzione di un obbligo vaccinale così importante con misure coercitive porterà ad un abbandono vaccinale invece che a una sottoscrizione del progetto. Una posizione incomprensibile, fortemente minoritaria, ha commentato dal canto suo il presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini. Che ho sempre detto, non è tollerabile che nel 2017 si possa avere paura di ammalarsi o peggio di malattie che avevamo da decenni, delle quali avevamo perduto memoria da quando eravamo bambini. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Altro tema, l'omicidio stradale. Quasi 550 denunce sono state fatte dall'entrata in vigore. Il bilancio è stato tracciato oggi a Roma in un convegno nel quale è stato precisato che il 2017 è l'anno nero per gli incidenti. In sei mesi più 4,6% di decessi. Il bilancio sull'omicidio stradale è stato fatto dal capo della polizia Gabrielli. Chi si aspettava soluzioni miracolistiche era altamente prevedibile che queste soluzioni miracolistiche non potevano esserci. Il nostro giudizio è un giudizio comparato al tempo e tenuto conto della premessa positivo. Il dato va visto in maniera disaggregata, va visto soprattutto per il tempo per il quale la norma ha potuto esplicare la sua efficacia e quindi non vorremmo che il giudizio sia un giudizio lapidario e sostanzialmente negativo. Si torna a parlare ancora del caso Charlie, molto, molto dibattuto, molto travagliato in questi giorni, del bambino inglese, bimbo di 10 mesi che ha attaccato alle macchine perché ha una malattia rara e incurabile. La mamma avrebbe detto oggi che gli stanno per staccare la spina, l'ho detto a Piero Sant'Antonio, che è presidente dell'associazione Mitocon, che si occupa proprio di malattie mitocondriali come quella di cui è affetto il bimbo, e che rivolge un appello alle autorità inglesi, dice: fermatevi, il protocollo scientifico di trattamento sperimentale è pronto. E invece ritorniamo in Italia con lo sciopero dei trasporti, che è ancora in corso a Milano, è iniziato alle 18 e finirà alle 22. Nessun disagio particolare al momento, mentre questa mattina nel centro-sud ci sono stati diversi problemi, soprattutto anche a Roma. All'estero, di nuovo, la disparità nei salari tra uomini e donne alla Casa Bianca è più che triplicata da quando si è insediata l'amministrazione di Donald Trump. Lo afferma l'economista Mark Perry del centro di ricerche conservatore America Enterprise Institute. Il divario retributivo di genere è pari al 37% nella Casa Bianca di Trump, più del doppio rispetto a quello nazionale al 17%, la più ampia, dice questa ricerca, dal 1980. Torniamo in Italia con la cronaca. A Milano una bambina di un anno è stata dimenticata in auto dalla madre in un parcheggio della metropolitana, salvata per fortuna grazie all'intervento di un passante della polizia che ha sfondato un finestrino. È successo questa mattina nel parcheggio della metropolitana di Bisceglie. La mamma, 38 anni, dopo aver parcheggiato, ha preso un treno per andare al lavoro. Purtroppo, insomma, ci risiamo, ma questa volta è andata bene. Sport, ciclismo, brutto incidente per Claudia Cretti al Giro Donne. La ventenne ciclista bergamasca è ricoverata in ospedale a Benevento in prognosi riservata dopo una caduta in discesa a velocità sostenuta durante la settima tappa Isernia-Baronissi. Cretti avrebbe battuto la testa contro il guardrail. E poi, per chiudere, questa scoperta, la scoperta del CERN di Ginevra, la particella XI o XI, lo chiederemo poi, sarà qui effetto note il ricercatore italiano che ha condotto lo studio, sarebbe questa particella la colla della materia, che tiene insieme la materia. Insomma, un sacco di argomenti di cui parlare. Voi continuate con i vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Note, alla quale tra l'altro potete aderire senza indugio, e anche il numero per messaggi SMS, che è 349-238-6666. C'è qualcuno che dice: Renzi non è in difficoltà, semplicemente politicamente morto. Mi sembra un po' prematuro dire una cosa del genere, ci sono alti e bassi per tanti esponenti politici di livello, anche Berlusconi quante volte si è dato per morto, non mi sembra, che sia molto decisamente vivo e vegeto. Tra poco i temi, 349-238-6666, viabilità. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. 60 minuti pieni zeppi di notizie dei fatti principali della giornata dall'Italia e dall'estero, con voi sempre Roberto Giordano, tutte le sere dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 22 per la vostra colonna sonora dell'informazione, per essere sempre aggiornati. Un giorno non poter dire io non lo sapevo su una notizia importante. Cominciamo tra poco con i temi e con gli ospiti, i vostri messaggi sempre alla pagina Facebook di Effettonote al 349-238-6666. A proposito delle alleanze del PD, Giovanna dice: penso che ormai con chiunque stringa alleanza sia destinato a perdere. Il PD, gli elettori sono stanchi di balletti e promesse mancate. Buon lavoro Roberta, grazie per la compagnia, grazie a te Giovanna. Gli altri messaggi a dopo. Vi ricordo molto velocemente le notizie più importanti per chi avesse acceso con ritardo. Scontro nel PD, la minoranza non vota la relazione di Renzi e la direzione. Lui dice basta parlare di alleanze, tensione anche con Franceschini che ha detto il PD da solo non vince. E poi questo scontro al Senato, in particolare tra PD e Forza Italia sugli orfani dei femminicidi. Forza Italia frena sul disegno di legge, la sottosegretaria Boschi attacca e dice è una vergogna, bisogna andare avanti, sono stupore e dispiacere, dice, così si mette a rischio il risultato finale. E poi il presidente americano Trump oggi a Varsavia ha parlato contro la Russia, dice ed è stabilizzante. Intanto i preparativi per il G20 di domani ad Amburgo, con già scontri e fermi nella città tedesca, ne parleremo tra pochissimo. La scoperta al CERN di Ginevra della particella XI, inseguita da anni, aiuta a capire la colla, tra virgolette, che tiene unita la materia. E poi delusione dell'Italia al vertice di Tallinn sui migranti. Minniti fa sapere discuteremo comunque con fermezza. È stato detto un no all'Italia sui porti che non siano italiani, mentre va bene per le regole di comportamento delle organizzazioni non governative. E poi la mamma di Charlie, il bimbo di 10 mesi britannico, che dice stanno per staccargli la spina, l'associazione dei pazienti dice a ore sarà pronto il protocollo. Sentite ad Amburgo in Germania, fervono da una parte gli ultimi preparativi per il G20 di domani, il grande vertice dei grandi della Terra. E poi messo giù la nostra, sì, adesso ci colleghiamo con Amburgo. Vi facevo sentire appunto i manifestanti, perché sono iniziate le manifestazioni di protesta già in realtà negli giorni scorsi. Oggi alle 19 ufficialmente è partita la marcia di protesta intitolata Welcome to Hell, cioè benvenuti all'inferno, laddove l'inferno è il capitalismo, lo sfruttamento globale delle risorse, la guerra. Doveva essere appunto la prima protesta, questa invece già da domenica ci sono dei fermi, c'è un pullulare di contestazioni ad Amburgo, che è una città sulle rive dell'Elba, uno dei centri più floridi per i movimenti antagonisti in Germania. E lì raggiungiamo subito Tonia Mastrobuoni, corrispondente di Repubblica dalla Germania. Cara Tonia, buonasera. Buonasera a voi. Quindi la situazione è tesa, sentivo appunto, vedevo le ultime agenzie di questi scontri, abbiamo fatto sentire ma anche no, un audio. Sì, la manifestazione è già finita, i manifestanti sono stati dispersi anche grazie all'uso degli idranti, come avrete visto. Ci sono stati appunto alcuni fermi, niente di secondo me eclatante, c'è stato appunto un momento di tensione con alcune frange più estremiste del movimento, insomma, che non volevano, che sono andati lì mascherati, noi li chiamiamo Black Bloc per semplificare, ma insomma momenti di grande tensione tra poliziotti mentre il corteo si muoveva verso dal Fischmarkt, dal vecchio mercato del pesce, verso l'area più vicina al vertice. E sono stati questi scontri, poi sono stati dispersi e così. Secondo me abbastanza rituale come manifestazione, anche come epilogo, diciamo, di questa manifestazione. È molto più interessante stavolta ed è molto più caotico quello che sta succedendo dietro l'ordinatissima facciata di un vertice del G20 che invece si annuncia come il vertice più pazzo della storia. In che senso, Tonia? Perché c'è Merkel e Trump, insomma, che hanno un rapporto un po' teso soprattutto per la questione del clima. Merkel, che poi ha detto, la cancelliera tedesca, che stanno cambiando gli equilibri nel mondo, no? Sì, certo, esatto, questo. Cioè, lei ieri ha visto Xi Jinping, appunto il presidente cinese, l'ha visto a Berlino, c'è stata la diplomazia dei panda, abbiamo visto tutti i due panda consegnati all'Otto di Berlino in segno di pace, quello che la Cina fa da secoli con i paesi amici, ma anche insomma ostentatamente la firma di 10 accordi commerciali e l'impegno ad aprire maggiormente i mercati reciprocamente. Lì sappiamo che c'è, tra l'altro, sotto traccia ancora uno scontro enorme, per esempio su questo shopping forsennato dei cinesi nell'alta tecnologia europea. Però ecco, Xi in questo momento si propone come, si sta inserendo in questo vuoto, diciamo, di potere creato dal ritiro di Trump, e Trump è arrivato al vertice con una tappa intermedia in Polonia in cui, come al solito, come si dice a Roma, ha buttato tutto in caciara, non si è capito nulla di quello che ha detto, perché ha detto tutto il contrario di tutto, ha di nuovo accusato i servizi segreti americani di aver fornito informazioni sbagliate su presunte manipolazioni delle elezioni del Russia Gate, da parte, no? dei russi. Però un minuto dopo ha detto che i russi sono tanto cattivi per quello che fanno in Ucraina. Tre minuti prima aveva detto che l'Alleanza Atlantica è fantastica. Come sappiamo, fino alla scorsa settimana lui minacciava di cancellare il famoso articolo 5, quello della del mutuo aiuto. Quindi voglio dire, siamo di nuovo di fronte a un personaggio erratico che ha trasformato questo consenso già abbastanza difficile veramente nel G20 più pazzo del mondo. E a questo si aggiungono tensioni con altri paesi, perché non è mai stato vero che è stato un 19+1, forse sul clima, e anche lì voglio dire, voglio vedere fino all'ultimo non ci saranno anche problemi come ci sono stati in fase di scrittura della dichiarazione finale, quindi di discussione tra gli Sherpa con l'Arabia Saudita, che sarebbe tentata dallo sfilarsi, no? Da naturalmente dagli accordi di Parigi, o anche la Turchia e la Russia per altri motivi. Stamattina abbiamo letto su Handelsblatt un intervento molto deciso in cui Putin, per fortuna il titolo era mischiero con la Germania, una roba del genere, in cui Putin sul libero commercio e sul clima, che sono i due punti essenziali per Angela Merkel, si schiera con Merkel, quindi contro il protezionismo e per gli accordi di Parigi, anzi dice che la Russia aumenterà gli impegni per gli accordi di Parigi. E quindi abbiamo appunto un vertice in cui ci sono alcuni focolai di crisi, no? C'è per esempio il rapporto tesissimo tra Angela Merkel e Erdogan, si sono visti ieri sera, vedendo appunto adesso, per la questione del comizio annullato qui a Amburgo, per la questione dei giornalisti trattenuti e incarcerati da mesi senza una motivazione plausibile, eccetera. Quindi abbiamo una situazione con vari focolai, però diciamo, ecco, il vero elemento che sta sbaragliando tutto il vecchio ordine mondiale, come sappiamo, è Trump, e purtroppo sta anche in qualche modo indebolendo la posizione del suo paese in questi consessi, perché è chiaro che Merkel ieri, con questo incontro con Xi, molto sceneggiato, ha voluto segnalare che ci sono delle alternative all'America, che la Germania cercherà. Si inserisce, insomma, diciamo, in questa posizione un po' ambigua che lascia Trump. Vedremo domani. Allora, buon divertimento, Tonia Mastrobuoni, con questo che hai definito il G20 più pazzo del mondo. Tonia Mastrobuoni, ricordo, corrispondente della Germania di Repubblica. Ciao Tonia. Ciao, grazie a voi. E dal vertice dei grandi è un vertice un po' più piccolo, quello della direzione del Partito Democratico di oggi, direzione nazionale. La direzione nazionale è l'organo che dà, diciamo, l'orientamento politico al partito. È stato il primo non in streaming, quindi non abbiamo potuto seguire e non ci sono neanche degli audio. È stato fatto a porte chiuse, con però sappiamo tensioni crescenti soprattutto sul tema delle alleanze, perché era stata già rinfocolata questa tensione dal fallimento del referendum del 4 dicembre, e poi ci sono stati pessimi risultati delle elezioni amministrative. Allora, gli ultimi a lanciare la sfida a Renzi. Intanto saluto la nostra Betta Fiorito in diretta da Roma. Cara Betta. Buonasera ai radioascoltatori, Roberta. Dicevo, Betta, gli ultimi a lanciare la sfida a Renzi, dopo questa rivolta che già c'è stata già nei giorni scorsi, anche pro di sì, pro di no, alleiamoci con Pisapia oppure no, insomma l'ultima sfida è stata lanciata da Orlando e da Franceschini che ha detto di non voler mettere in discussione la leadership di Renzi, che però qualcosa che non va bene, c'è qualcosa va cambiato, e che sono importantissime le alleanze, perché ha detto fuori dai denti Franceschini: il PD da solo non vince, quindi bisogna allearsi. Renzi in realtà ha detto: non ne voglio sapere, sono cose che annoiano gli elettori. Però anche Orlando già nei giorni scorsi aveva minacciato: se Renzi intende allearsi con Forza Italia, allora bisogna fare un referendum tra gli iscritti. Come è andata oggi? Tu sei riuscita, Betta, a infiltrarti? Ma tutto era molto blindato a Nazareno, è ritornato il vecchio stile in cui le direzioni si facevano a porte chiuse e poi... È un brutto segno? Un brutto segno secondo te? Ma secondo me alla fine no, perché il problema dello streaming è stato dato quando il Movimento 5 Stelle aveva annunciato all'inizio della legislatura che avrebbe fatto tutto in streaming. Vero. Poi si è capito che il Movimento 5 Stelle in streaming le riunioni non le faceva, almeno non le metteva le riunioni interne, altra cosa sono i dibattiti parlamentari, altra cosa sono le conferenze stampa, ma quando si fanno le riunioni del Movimento 5 Stelle queste riunioni sono blindatissime. Ti ricordi da prima fu fuori Roma con tutti i deputati che andavano in un pulmino in una località sconosciuta? Per cui l'unico partito che era rimasto a farle in streaming è stato il PD, e quindi queste riunioni in streaming si facevano e si dicevano le cose, però poi alla fine non ci si chiariva, perché poi quello che viene detto a porte chiuse con anche le veline e i vari gossip eccetera, è chiaro che non si può dire tutto a porte aperte. Una volta mi ricordo però Cooper lo disse anche ai La Stoffa, no? Non è, tu pensi di avere la stoffa del capo, in realtà non ce l'hai. Sì, nei confronti Renzi. Allora, oggi finalmente quello che si dice in gergo, si sono lavati gli stracci, ecco. E questo è stato abbastanza, secondo me, positivo per il PD, ovviamente sono venute fuori le varie correnti ed è venuta fuori la corrente franceschiniana, perché qual è la differenza? Che Orlando, che Emiliano siano sempre sul piano di guerra, Orlando insiste con il centrosinistra, ha fatto tutta la sua campagna da candidato segretario per questo, Emiliano anche, no, sempre guarda la sinistra eccetera, questo era ovvio. Quello che non era ovvio e che da un po' di giorni è venuto fuori è il fatto che una corrente più centrista come quella del ministro dei beni culturali Franceschini si sta quasi sfilando dalla leadership di Renzi. Allora è vero che i renziani ribadiscono che il congresso si è appena tenuto, Renzi è stato fatto segretario con 2.400.000 iscritti e quant'altro, però è vero pure che sappiamo anche che le primarie del PD sono molto plebiscitarie e quindi che c'è un effetto traino. Allora, se dovesse staccarsi la corrente franceschiniana, e parlo di sé perché comunque Franceschini oggi ha votato la relazione del segretario, diciamo che per Renzi potrebbe pronosticarsi anche la fine. Hai detto la fine, una parola che è scesa come una specie di... prima del... Ma tu lo pensi veramente, Betta? Allora ha ragione quell'ascoltatore che dice Renzi è praticamente morto? No, io dico una cosa. Quello che ha voluto dire Franceschini è un avvertimento. Così vai a battere a un muro e noi non te lo permettiamo. Detto questo, anche il PD sa che pensa la verve di Renzi, gli attacchi, la capacità anche oratoria di Renzi, che Orlando non ha, per esempio, no? Perché voglio dire, poi le elezioni si vincono anche con queste caratteristiche. Ovviamente il PD è condannato alla sconfitta, però è condannato alla sconfitta, e questo è quello il messaggio che ha voluto dare Franceschini. Se non si allea con qualcuno, con chi dovrebbe allearsi secondo te, Betta, nella testa di Franceschini, se tu riesci a interpretare, diciamo, i suoi pensieri? Ma sai, l'alleato è Pisapia, il problema è lì che devono contrattare che D'Alema non entri, ecco, questo è il problema. Dice, va bene Pisapia, ma resti fuori D'Alema. Senti, leggo qualche messaggio veloce, Andrea che dice: dal 2011 che il PD è alleato con chiunque, ha fatto solo disastri per l'Italia e gli italiani, speriamo che ci sia un po' di memoria per evitarne altri. Roberto scrive che l'argomento più dibattuto sia quello delle alleanze, mostra quale sia il reale interesse del PD rispetto al miglioramento della situazione del paese, la politica che parla degli argomenti della politica, anche se, come ci diceva Betta Fiorito e come diceva Franceschini, se il PD del resto non è in grado di vincere da solo e deve comunque e vuole comunque governare, con qualcuno si deve alleare, altrimenti il governo non si fa, o lo fa qualcun altro, qualche altro partito, movimento. Elena dice: voto all'unanimità, un tempo si diceva maggioranza bulgara e ora insomma così, però Betta, no, allora ci sono delle breve cose, breve che ti voglio chiedere un'altra cosa su cosa è successo, su cosa è successo sul disegno sì, di legge. Ma due secondi ai radioascoltatori, allora intanto voto all'unanimità non è vero, perché la minoranza è uscita e non ha votato, quindi non è un voto. Quella di Orlando ed Emiliano sono uscite. È semplicemente sì. Una cosa. Poi le alleanze, si discute di una cosa politica di cui discutono tutti gli altri partiti, tranne il Movimento 5 Stelle, di cui però si sospetta una alleanza postuma con la Lega. Questo almeno noi notisti politici, ma noi siamo sempre cattivi. Quell'altro che diceva il PD ha fatto dei danni è un'opinione assolutamente rispettabile, infatti si va a votare perché così i cittadini possono scegliere di fare un nuovo governo. Ora, l'altra cosa, andiamoci sul femminicidio, che questo è un po' sì, infatti Betta, ti vorrei succedendo. Chiedere, così spieghiamo anche agli ascoltatori, che cosa è successo in questo scontro che c'è stato al Senato, in particolare tra Partito Democratico e Forza Italia, su una legge, un disegno di legge che si sta aspettando da un po' di varare, che non solo ci sono i femminicidi in Italia, ma poi ci sono anche gli orfani delle donne uccise dagli uomini, che sono già moltissimi. Allora si sta tentando di far passare questa legge per sostenerli, soprattutto da un punto di vista economico. Che cosa è successo? Perché si è arenata al Senato e Forza Italia, Lega e Galla hanno votato contro? Allora, intanto spieghiamo un meccanismo parlamentare. Questa legge, siccome tutti quanti i gruppi erano favorevoli, doveva passare in sede deliberante in commissione, che vuol dire che la commissione vota come se fosse l'aula, e quindi la legge per un iter più veloce, no? Per un iter più veloce eccetera. Ora con questa posizione di Forza Italia si andrà in aula, quindi questo ritarderà un po' i lavori. Cosa è successo? Che negli orfani di femminicidio il PD ci voleva anche mettere quelli delle unioni civili. Mentre Forza Italia ha contestato il fatto, sappiamo tutti che nelle unioni civili non è stata approvata la stepchild adoption perché sia i centristi sia il centrodestra erano contrari, quindi praticamente Carfagna e Prestigiacomo hanno detto: ah, si vuole far passare dalla finestra ciò che non è passato con l'unione civile dalla porta. Per cui noi non votiamo sugli orfani, scusate, di femminicidio delle unioni civili. Ci rifiutiamo perché questo qui non è passato per legge. Scusa Betta, tra l'altro questa di includerli è una precauzione, perché al momento i femminicidi sono quelli degli uomini nei confronti delle donne in coppie eterosessuali. Io pure mi sono chiesto la stessa cosa mentre leggevo tutto questo sconcerto, questo stupore e dispiacere che poi anche detto la sottosegretaria Maria Boschi. In realtà, se pensiamo a una donna che lascia un uomo e si mette con un'altra donna, e magari questi e l'uomo la uccide comunque, la uccide, questi bambini a chi vanno? In questo caso andrebbero alla seconda madre, tra virgolette, non voglio poi dire delle cose che non sono stabilite per legge, però magari andrebbero alla compagna. Sì, sì, no, è chiaro perché questa donna, qual era l'intenzione, questo, sì. Poi, punto, e certo più difficile che una donna che viene lasciata da un uomo, che si mette con un altro uomo, poi vada ad ammazzare quest'uomo. Ecco, abbiamo visto anche questo molto raramente. Molto però raramente. È più facile. Tu immaginati se un uomo è violento, uccide già una donna che va con un altro uomo. Figuriamoci se va con una donna, dici tu. Se va con un'altra donna è il delirio. Chiarissimo, allora, Betta. Era questo diciamo il così punto del femminicidio. Secondo me questo, però io sono molto laica, qui lo devo dire, quindi insomma, gli orfani sono gli orfani e vanno tutelati tutti. Chiaro. In questo caso soprattutto orfani che perdono la loro madre perché è stata ammazzata da qualcun altro. Vediamo se riparte questo iter. Grazie Betta. Speriamo. Fiorito da Roma. Grazie a te. Ciao Betta, buona serata e buon lavoro. Allora, noi adesso ci prendiamo questa pausa e poi dopo ritorniamo naturalmente con i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666. Dice per esempio questo ascoltatore Gianni: buonasera Roberta, volevo chiedere il tuo parere circa l'atteggiamento di chiusura di alcuni paesi europei come Malta, la Germania, la Francia, Austria eccetera nei confronti dell'emergenza migranti. Come mai queste nazioni hanno il potere e la facoltà di chiudere le frontiere e i porti mentre l'Italia no, non ha questo potere? Semplicemente perché noi siamo tutta costa e come si fanno a fermare anche volendo? A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state seguendo Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano. Cambiamo tema, adesso parleremo del processo d'appello a Massimo Bossetti per l'omicidio di Yara Gambirasio. 349-238-6666, il numero per sms e whatsapp, se volete scrivere i vostri commenti sulle notizie di oggi, oppure c'è la pagina Facebook di Effetto Notte alla quale potete aderire senza indugio. Dice questo ascoltatore: come fai a dare risposte del genere? Perché un altro ascoltatore mi chiedeva come mai altri paesi hanno il potere di non accogliere i migranti mentre noi sì. La risposta, diciamo, la più semplice, la più diretta, la più oggettiva è che noi abbiamo un paese fatto tutto di coste. Questo ascoltatore dice: come fai una risposta del genere? La Spagna ha più coste di noi e loro 6.500 immigrati e noi 85.000. Sì, peccato che noi siamo a pochissima distanza dalla Libia. Ecco, un'altra risposta aggiuntiva. E poi invece ancora ne vedo sul PD, oppure un altro ascoltatore che dice sull'immigrazione: Bill Gates ha detto le stesse cose sostenute dal centrodestra, vediamo se le maestrine spocchiose del politicamente corretto daranno anche a lui del razzista e del fascista. Non so a chi si riferisca, comunque Bill Gates era oggi sì sulle pagine di vari media, diceva all'Unione Europea: meglio chiudere i vostri confini, dovete essere meno attrattivi per chi arriva dall'Africa e investire di più in quei paesi, quello che si dice da tanto tempo, però evidentemente questi investimenti fra l'altro non ci sono. Però vi dicevo, cambiamo tema, vi ricordo molto velocemente le notizie più importanti, che sono appunto il G20, vigilia blindata ad Amburgo, Trump è arrivato nel pomeriggio proveniente da Varsavia, intanto nella città tedesca ci sono stati scontri tra manifestanti e polizia, il vertice a Tallinn dei ministri europei dell'interno sui migranti, braccio di ferro, no sui porti, all'Italia sì alle regole per le organizzazioni non governative, la direzione del PD di cui abbiamo appena parlato, tensione sul tema delle alleanze, Renzi assicura nessun accordo con Forza Italia ma Orlando e Emiliano non votano. Femminicidi, sulla legge per sostenere gli orfani, scontro tra PD e Forza Italia che frena il provvedimento perché include anche i figli delle unioni civili, l'omicidio di Yara Gambirasio ne parliamo adesso e poi scienza, scoperta al CERN la particella XI, la colla della materia, Effetto Notte sentiremo poi il ricercatore italiano che ha condotto lo studio. Ora invece saluto subito Vittorio Attanà, giornalista dell'Eco di Bergamo. Buonasera Vittorio. Buonasera Roberta e a tutti gli ascoltatori. Vittorio che ci sta raccontando dall'inizio, un po' sta seguendo le varie udienze di questo processo per il delitto, per l'omicidio di Yara Gambirasio. Ogni volta ve lo ricordo, ma insomma ormai lo sapete che è la tredicenne di Brembate, vicino Bergamo, che il 26 novembre 2010 fu seviziata e lasciata morire tra le sterpaglie di Chignolo d'Isola, dove fu trovata 3 mesi dopo. L'unico imputato, è già condannato all'ergastolo, è il muratore Massimo Bossetti. C'è questo, la seconda udienza, abbiamo parlato della prima udienza la settimana scorsa del processo d'appello a Brescia, era stata la volta dell'accusa, oggi è stata la giornata della difesa, Vittorio. Sì, la difesa che ha chiesto una nuova perizia sul DNA, la prova che inchioda Bossetti e che gli è valsa finora la condanna all'ergastolo, viene rimessa in discussione totalmente dalla difesa che sostiene che sia un esame sbagliato, un esame pieno di criticità e di dubbi che andranno a illustrare anche poi nelle prossime udienze. Ma non solo DNA, anche tutti gli altri indizi, quindi le particelle di tessuto che dovrebbero essersi depositate sul corpo secondo l'accusa perché Yara entrò nel camioncino di Bossetti, anche quelle sono tutte da rivedere, da mettere in discussione secondo gli avvocati di Bossetti. Staremo a vedere se la Corte accorderà questo nuovo accertamento, oppure se deciderà invece di andare subito a sentenza e quindi di confermare la condanna oppure di assolvere. Quindi c'è sempre centrale in questo processo, per quanto riguarda la difesa ma anche l'accusa, il DNA, no? Che secondo l'accusa è inequivocabile, mentre la difesa da tempo sta chiedendo di fare che questa prova. È l'architrave di questo processo, il DNA. Senza DNA non ci sarebbe, che sappiamo che era stato raccolto. L'altra volta abbiamo fatto un po' una sintesi con delle indagini incredibili, forse un record addirittura a livello internazionale. Senti, la difesa oggi tra l'altro ha sostenuto che il cadavere di Yara sarebbe stato rimaneggiato per depistare le indagini, che non si trovasse, che non fosse già stata ammazzata la povera bambina lì in quel campo di Chignolo d'Isola, ma fosse stato poi portato lì. Sì, dall'inizio la difesa sostiene una ricostruzione del tutto alternativa a quella della procura. Secondo i legali di Bossetti, il corpo non è stato messo nel campo di Chignolo d'Isola sin dal giorno della scomparsa di Yara, ma tenuto altrove e poi depositato solo in un secondo momento. Lo dimostrerebbe, secondo la difesa, tra le altre cose, anche una foto scattata da un satellite che appunto gli avvocati hanno prodotto in aula chiedendone l'acquisizione. Fotografia che invece, secondo la Procura Generale e secondo gli avvocati della parte civile, quindi della famiglia Gambiraggio, non dimostrerebbe assolutamente nulla, perché non permetterebbe di vedere da altezza satellite, diciamo così, alcunché nel campo di Chignolo. La tesi della difesa di Bossetti è che il corpo di Yara in quella fotografia non viene ritratto, quindi probabilmente non c'era. Ecco, loro lo ritengono un modo per corroborare la loro ricostruzione alternativa a quella della procura, cosa che non sposta ovviamente il problema di fondo di tutto questo processo, ovvero che sia che Yara fosse sin dall'inizio nel campo di Chignolo, sia che fosse stata portata successivamente, rimane comunque il DNA che è l'elemento da confutare da parte della difesa di Bossetti. Vittorio, senti, la prossima udienza, dato che la sentenza ci dovrebbe essere a metà luglio, quando ci sarà la prossima udienza? Dovrebbe essere anche a un certo punto la volta di Bossetti, delle sue repliche, no? Lunedì la prossima udienza, lunedì 10 luglio, e sarà ancora la volta degli avvocati di Bossetti, che hanno una lunga arringa ancora da sviluppare. Dovranno entrare a proprio, come dicevo, nel merito del DNA, punto per punto, cercando di smontare questa prova. Poi sarà lunedì 14 la volta delle repliche. Oggi i legali di Bossetti hanno mosso critiche molto forti sia alla Procura Generale sia anche alla parte civile, se vogliamo, e quindi è lecito aspettarsi repliche da parte di questi. E poi il 17 è attesa la decisione della Corte. Prima del verdetto dei giudici, i difensori di Bossetti hanno annunciato che il muratore prenderà la parola per dichiarazioni spontanee con le quali cercherà di convincere i giudici. E questo sarà particolarmente interessante. Grazie ancora a Vittorio Attanà dell'Eco di Bergamo. Buon lavoro, grazie, Vittorio. Roberta. Ciao, grazie. Viabilità. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Ed eccoci subito insieme, Roberta Giordano, con voi. Adesso dovremo cambiare tema, se riusciamo a raggiungere il ricercatore, lo scienziato italiano che ha condotto lo studio del CERN di Ginevra, che ha portato a questa scoperta che sembra eccezionale, anche se per noi comuni mortali diventa un po' complicato capire fino in fondo l'importanza. È stata scoperta la particella XI, la scoperta annunciata nella conferenza della Società Europea di Fisica in corso a Venezia. Stiamo cercando di raggiungerlo. Intanto vi ricordo che per i vostri messaggi potete sempre scrivere sulla pagina Facebook di Effetto Notte, oppure al 349-238-6666, il numero per messaggi e WhatsApp. Dice un altro ascoltatore: guardi che noi abbiamo firmato un accordo con l'Europa, ecco perché li raccogliamo tutti noi. Certo, poi c'è anche l'accordo di Dublino, però se gli altri stati possono sottrarsi comunque ad accordi, a solidarietà eccetera, è proprio perché noi comunque arrivano, dalla Libia arrivano, e come fermarli? Cosa si fa? Si costruisce un muro, anche se non li si vuole, si costruisce un muro in acqua. Dopodiché direi di cambiare tema e vi ricordo anche velocemente quali sono le notizie più importanti della giornata. Vigilia del G20, blindata a Amburgo, la città tedesca dove si terrà domani il vertice dei grandi. Trump è arrivato nel pomeriggio, proveniente da Varsavia, dove ha parlato a fasi alterne contro la Russia. Intanto nella città tedesca sono iniziati scontri tra manifestanti e polizia, migliaia di manifestanti che arrivano da tutta Europa. Per il momento però, ci diceva la corrispondente di Repubblica, che è tutto tranquillo. E poi il vertice di Tallinn sui migranti, l'Italia è rimasta piuttosto delusa perché c'è stato un sì per un codice di comportamento per organizzazioni non governative, ma un no a porti stranieri dove fa sbarcare parte dei migranti. La direzione del PD, tensione sul tema delle alleanze, Renzi assicura nessun accordo con Forza Italia, ma Orlando ed Emiliano non votano. Quindi, dicevo, di questa scoperta scientifica di primissimo piano compiuta dal CERN di Ginevra, che è il laboratorio europeo per la fisica delle particelle, è stata scoperta la particella XI o XI, la scoperta annunciata nella conferenza della Società Europea di Fisica in corso a Venezia, grazie all'acceleratore più grande del mondo, inseguita da decenni. Questa particella potrà aiutare, pare, a studiare la colla che tiene unita la materia, ossia per capire una delle quattro forze fondamentali della natura, che è la forza forte. Allora, questa sembra una tautologia, la forza forte, la forza per forza è forte. Ma chiediamo spiegazioni a Giovanni Passaleva, che è scienziato fisico che ha diretto l'esperimento che ha portato a identificare questa particella. Professor Passaleva, buonasera. Buonasera. Complimenti, grazie alla disponibilità. Ma lei riesce a spiegarci un po' davvero in parole povere in cosa consiste questa scoperta? Senta, dunque, la particella che è stata scoperta è una particella che, se vogliamo, può essere considerata una lontana cugina dei protoni e dei neutroni, che sono le particelle che costituiscono la materia ordinaria. Mm. Ora, diciamo, i protoni e i neutroni sono costituiti a loro volta da quark, che sono queste particelle un po' misteriose che non è possibile osservare isolate, ma solo all'interno di altre particelle, come per esempio i protoni e i neutroni. La teoria che descrive i protoni e i neutroni si chiama cromodinamica quantistica, cioè un nome un po' complicato, e è una teoria che funziona molto bene, ma che paradossalmente fa fatica a spiegare come i quark si legano, stanno legati insieme all'interno del protone e del neutrone. E sarebbe questa particella a fare da collante, ma si definisce La particella, diciamo, la particella non fa da collante, la particella permette, è una particella molto particolare che permette di capire molto meglio come mai, in che modo, diciamo, i quark stanno legati insieme all'interno dei protoni e dei neutroni, sostanzialmente. Quindi lei, professore, ci sta dicendo che è comunque fondamentale questa particella per capire molte cose. Sì, perché permette di capire una forza che si chiama la forza forte, che è fondamentale perché tiene insieme protoni e neutroni, quindi la materia ordinaria come la conosciamo, cioè alla base del fatto che la materia sia abbia l'aspetto che conosciamo. Sì. E diciamo come aspetti pratici, se noi avessimo bisogno, diciamo, di qualcosa di più elementare per comprenderlo. Abbiamo ancora 40 secondi, professore. Sì. Dunque, gli effetti pratici, la particella in sé per sé non ha effetti pratici, semplicemente perché viene creata solo agli acceleratori di particelle e vive una frazione infinitesimale di tempo. Mm. Però permette appunto di studiare molto più in profondità e molto più in maniera più precisa, la materia, più chiara, la materia. Esattamente, le interazioni forti che sono alla base dei costituenti della materia. Professor Passaleva, a malincuore ci dobbiamo lasciare perché il tempo corre, ancora più infinitesimale della particella, però la ringrazio, siamo orgogliosi che sia stato un italiano a fare questa scoperta. Grazie professor Giovanni Passaleva, grazie e complimenti. Arrivederci. Sì, ci risentiamo alle 22.